still long. Dropped down to dusty heart. Secret. seconda parte di 451 frammenti sonori che questa sera è dedicata alla Weird, ma non al Weird attuale che per tanti versi è passata, continuerà a passare qua appunto a 451, ma un po' alle genie, le grandi genie che provengono appunto dagli anni 50 in poi. Abbiamo iniziato con Moondog per poi passare a Joe Mack, Bruce Hack, e stiamo ancora sentendo in sottofondo Silver Apple, storica formazione che così per probabilmente una comodità di etichettatura data dai critici, da chi deve anche vendere evidentemente il prodotto musicale, è stata data come psichedelica. Poi in realtà con Silver Apple si va veramente a aprire un mondo che all'epoca era assolutamente impensabile, ovvero quello che sarà poi il synth pop, quello che sarà una certa new wave che passava per esperimenti arditi di una New York assolutamente scura e noir come quella di Suicide, o altri esperimenti degli anni 90, fine anni 80, come quello di Spaceman 3 e poi di Sonic Boom, che tra l'altro avrà proprio un amore così forte verso le musiche di Silver Apple che chiederà appunto le collaborazioni dello storico Simeon, che tra l'altro, prima dicevo, qualche anno fa venne un Net Mage e veramente creò un'atmosfera assolutamente magica. Tutto, diciamo, il festival, che era improntato più che altro sul glitch, sul post glitch, chiamiamolo insomma un po' come vogliamo, sicuramente Silver Apple una versione di Simeon, anche perché è rimasto lui di fatto il nome che porta avanti ancora la sigla storicissima, fu veramente incredibile, diede per tanti aspetti anche il passo a molti giovani videomaker e musicisti, proprio per senso assolutamente visionario di una musicalità che si è sempre tinta di grande fantasia e di esperimenti anche piuttosto arditi, sia perché si sta trattando degli anni, della fine degli anni 60, dagli anni 60 in poi che esiste Silver Apple, se poi hanno pubblicato veramente molto poco, anche perché non capiti alla fine appunto del decennio di nascita, esperimenti che andavano dalla music brute a sorte di concretismo sonoro e anche con immaginari sonori molto vicini a una sorta di proto-industrial, con tanto anche di follia musicale, che stasera attraverso un po' tutti i progetti, però insomma con Silver Apple va più a toccare quel ramo, se vogliamo considerarlo tale, della musica, del grande albero della musica più vicino al rock, seppur insomma un rock veramente molto sui generis e molto molto sperimentale. E se Silver Apple trattavano quella New York allucinata di fine 60, con Wendy Carlos si va dentro quel mondo transgender in tutti i sensi, sia musicale e sia di fatto, visto che poi Walter Carlos diventò Wendy appunto con un'operazione che fece nel 1972, tra l'altro beccandosi anche un bel po' di critiche e non si è capito neanche tanto bene, anche legate alla musica. Questo probabilmente non c'entra molto con col sesso, anzi. Ma comunque Carlos sicuramente ebbe fama già come allievo di Usaceschi, con primi lavori legati sicuramente alle musiche contemporanee, e poi ebbe un grande amore per il Moog, conoscendo appunto direttamente Robert Moog, e così virando la sua preparazione tecnica accademica, seppur d'avanguardia appunto con il grande maestro Ussaceschi, la virò verso una forma di pop veramente strambo, perché transgender nel vero senso della parola, perché prendendo esempio dalle opere di Bach, grande amore di Walter e poi Wendy Carlos, e le trasformerà nelle prime esemplificazioni per Moog, quindi per sintetizzatore, creando un vero e proprio genere che di là a pochissimo sarebbe anche diventato piuttosto kitsch, con personaggi come Tomita e altri che porteranno insomma varia musica classica per sintetizzatore alle grandi masse, ma insomma perderà veramente sia di avventura sperimentale sia anche di rigore comunque, perché con gli esperimenti di Walter Wendy Carlos si andava appunto a ricercare una possibilità, un'altra via ai primi sintetizzatori, che non erano soltanto quelli, questa sera lo stiamo ripetendo più di una volta, non soltanto quelli delle avanguardie da laboratorio e degli studi insomma adatti e confermati anche appunto da grandi compositori, ma dando una via ulteriore a queste prime strumentazioni elettriche, elettroniche, con fuoriuscite verso un mondo assolutamente popular che influenzerà tantissimo le psichedelie e molta anche dell'ambient music. Poi ricordiamo che Carlos ebbe anche grande fama come collaboratore di Stanley Kubrick per Arancia Meccanica, e lì si diventerà a rielaborare in maniera incredibile Beethoven e varie musichette che ricordano un po' i jingle. Tra l'altro i jingle questa sera c'entrano piuttosto tanto, visto che sia personaggi come John Mack ma anche Bruce Hack, e troveremo qualcos'altro anche più avanti nel corso di 451, hanno avuto anche possibilità di esplorare campi nuovi attraverso proprio i soldini che tiravano fuori le varie aziende per la creazione di jingle magari piuttosto fantastici, magari legati appunto a prodotti tecnologici o a aziende che comunque richiedevano insomma un immaginario sonoro insomma piuttosto particolare. Quindi anche in questo senso poi Carlos con soprattutto le varie jingoliere che partivano dentro Arancia Meccanica è stato maestro. Con Sonic del 1972 si creerà una sorta di ambient music ante litteram, influenzando lo stesso Ino, che da lì a poco nel 75 inizierà a creare il vero viaggio dell'ambient cosiddetta tale proprio per i suoi lavori. Ma appunto già nel 72 Sonic Singing di Wendy Carlos indicavano una via al synth e all'ambient che fu perseguita sia da Ino ma da tanti altri, Errol Budd e compagnia, che appunto in Carlos videro un grande maestro e anche una sorta di possibilità appunto di interpretare in maniera assolutamente originale l'uso del sintetizzatore, e in questo caso insomma visto che è stato un grande maestro appunto del Moog. Ce l'andiamo pure appunto a prendere dal 1972 Wendy Carlos. E dagli esperimenti di Wendy Carlos e quindi le sue stagioni immaginate sonoricamente in maniera assolutamente originale, appunto il suo Sonic sia Sonics, e, siamo quasi entrati dentro una sorta di ambiente post-hippie, immaginando appunto un Beaver and Krause, due outsider delle psichedelie, ma delle ricerche più che altro psichedeliche di laboratorio, anche laboratori così appunto abbastanza malconci, ma anche se mancavano sicuramente di una tecnologia adatta a esprimere magari anche potenzialmente in maniera più massiccia il loro grande talento, sicuramente già tra la fine degli anni 60 e i primi 70 iniziarono a creare una sorta di possibilità musicale, di viatico sonoro, che influenzerà buona parte delle elettroniche più giocherellone, ma anche con quel piglio più visivo e più legato proprio a un uso anche più fisico, più manuale delle tecnologie che negli anni, fine anni 60, primi 70 si stavano evolvendo e stavano diventando quelli che poi saranno conosciuti come synth, i nostri synth, eccetera eccetera. Beaver and Krause ce l'andiamo a prendere dai vari esperimenti che compirono appunto qualche decennio fa, come vi stavo dicendo, e manipolando filtri, tape delay e anche una sorta di tema musicale sonorizzato appunto con i loro primi sintetizzatori, creano quella che è una No Such Guide all'elettronica, e quindi una sorta di esperimento, proprio un work in progress dentro il disco che uscì all'epoca come doppio vinile, che dà un po' l'idea appunto di come due hippie stravaganti potessero creare una sorta di mondo immaginario, appunto come direbbero qua a Bologna, magari pistolando in maniera insomma un po' più larga, si può dire manipolando appunto manopole e vari marchingegni creati o da loro o comunque appunto dai primi geniali costruttori. Prima abbiamo citato appunto il grande Robert Moog, per il momento quindi Beaver and Krause, e poi ci tufferemo in altri lidi sonori e sperimentali.

Beh, veramente splendido il lavoro di Thierry Muller con i suoi Illich vari e poi le propaggini della carriera di Thierry Muller, anche se poi per quanto possano essere varie, variegate anche nell'ambito delle sue conoscenze, capacità compositive, poi non è che sia particolarmente riconosciuto, anche oltre che essere non particolarmente conosciuto, un weird veramente ante litteram, e tuttora rimane probabilmente personaggio ancora troppo scuro, sia perché probabilmente le sue musiche così sono talmente al confine tra una sorta di via al minimalismo tutta sua personale, come connubi con certe musiche cosmiche e certe arie appunto che si cibano così di cosmicheggiamenti che danno veramente alle sue musiche una astrazione notevole, quella anche potremmo chiamarla patina, ma forse meglio chiamarla attitudine sonora, che va a impattare appunto con la materia trattata da Thierry Muller, che a volte diventa anche così abrasiva, una sorta di muro sonoro che riesce a creare il grande autore di musiche estremamente suggestive, con anche tanto poi di rockismo vario e annesso dentro queste musiche, un personaggio che per molti versi si può accostare agli Eldon, altra storica formazione degli anni 70, probabilmente molto più conosciuta di Illich e Thierry Muller stesso, per appunto questa piuttosto originale caratura musicale, che dal rock partiva per darsi a musiche d'avanguardia, però sempre appunto con quel tanto di ondivago e, se vogliamo, appunto di weird, come questa sera stiamo trattando, quel tanto di bacato, di folle in questo senso, che porta appunto a una fuoriuscita delle sue musiche verso lidi decisamente poco esplorati, che fanno di Thierry Muller un maestro misconosciuto, ma insomma decisamente importante sottotraccia per molti autori che in questi giorni, ad esempio, si stanno ristabilendo in quelle sintonie cosmiche o vagamente kraut rock, che però hanno appunto questa affinità con Thierry Muller, proprio per mescolamento delle carte, per un essere sempre inquieti dentro una ricerca musicale che non si vuole appunto mai doma, ma sempre alla ricerca appunto di nuove affinità, nuovi approdi e possibilità appunto date dallo stesso trattamento della materia sonora. E da Thierry Muller, con in questo caso i suoi Illich, progetto che poi insomma vedeva protagonista lui, passiamo a Smegma, formazione assolutamente folle che se da una parte ha fatto così da apripista per la Los Angeles Free Music Society, quindi un collettivo variegatissimo di musicisti americani che dalle psichedelie trasportavano le musiche degli States verso lidi vicine all'industrial, ma verso anche momenti di loungeria folle, momenti di impro radicale, veramente un calderone musicale incredibile. Smegma, probabilmente di quel grande collettivo da cui appunto è uscita la formazione, hanno sicuramente ereditato quella vena folle che tanto si addice a un altro gruppo che abbiamo così ricordato all'inizio trasmissione, ovvero Residence, e quindi con strani mondi che si vanno a intersecare con pazzie musicali assolutamente inedite, andiamo a trovare da una delle primissime uscite di Smegma, chiamata come una 33 giri 1,30, un terzo, ovvero la velocità che, a cui girava il 33, appunto si chiamava anche così proprio per quello, velocità che chiaramente era del piatto, piatti che poi vengono utilizzati anche dagli stessi Smegma in chiave assolutamente creativa, creando una sorta appunto di rumorismo folle, molto paradossale, anche appunto prima abbiamo tirato fuori Residence, molto molto giocoso. Smegma. Thank you. Beh, con Smegma si entra in una vera e propria citazione che i gruppi Weird attuali fanno direttamente. Poi tra l'altro Smegma come progettualità è ancora piuttosto viva, e escono anche delle cose decisamente notevoli. Una delle cose che potreste insomma ritrovare sulla rete molto interessante è Smegma insieme a Wolf Eyes, quindi un passaggio di testimone che poi di fatto sta continuando proprio in questi ultimi anni, in questi giorni, perché no, visto che Smegma continuano a stampare tra file MP3 scaricabili, cassette ancora, vinili limitati, CDR, insomma vari supporti anche abbastanza di fortuna, che comunque la dicono lunga su anche un modo di produrre, di intendere il prodotto musicale ben differente dall'industria musicale. Già alla fine degli anni 70 partivano, dopo appunto aver fatto parte di quel grande collettivo che fu Los Angeles Free Music Society, e partirono appunto creando una sorta di musica inventata a pie pari, quindi rumorismi vari, para jazz, para rock, un mondo fatto di follie sonore, di ironie, sarcasmi e di esperimenti che saranno assolutamente fondamentali per vari sperimentatori e soprattutto appunto per tutta la generazione Weird degli anni zero e di questi ultimi giorni. Citazioni veramente sarebbero sprecate, quasi tutti i personaggi che appartengono, che si vogliono far appartenere a questa scena, non scena, con Smegma hanno direttamente o indirettamente avuto a che fare. E se con Smegma andiamo a prendere uno dei nodi piuttosto vivi della vitalità Weird, sicuramente con WOOO, non da confondere con gli altri inglesi, andiamo a prendere una delle formazioni, delle progettualità più sconquassate degli anni 80, ma che Ariel Pink, DuckTales e vari personaggi che ad esempio abbiamo inserito proprio nella prima trasmissione di 451 di questa stagione 2010-2011 hanno come punto di riferimento assoluto. Le musiche degli WOO suonavano veramente piuttosto strane, strambe, appunto Weird, perché erano negli anni 80 musiche che non erano ben inquadrabili in periodi di grandi mutamenti, rivoluzionamenti post-punk, seppure insomma le musiche venivano veramente ribaltate come un calzino. Gli WOO avevano questa chiave angelicata, questa sorta di onirismo sempre molto aperto nei loro pochi dischi fatti, che li rendeva avulsi da qualsiasi scena e anche avulsi da molti ascoltatori anche piuttosto avventurosi, che andavano appunto a pescare tra varie stramberie sonore. Gli WOO sono stati ripresi proprio in questi ultimi giorni per questa loro possibilità data a certi anni 80 che non sono poi mai fioriti in realtà, che facendo un'operazione di retrofuturismo, di nostalgia futura, di un appunto futuro mai realizzato, come dicevamo all'ingresso di 451 nel 2010, prendono così come chiave di volta una un'invenzione, reinvenzione musicale, magari avendo più in testa certi episodi più strambi dei Beach Boys o di colonne sonore immaginarie o jingle quasi patafisici, e ce ne andiamo a prendere da una delle prime uscite di V, che già forse erano un po' consapevoli del loro stato dell'arte, nel senso che un po' autoironizzando si dicevano nerds e non weird, come il titolo del loro primo disco, che più o meno fa così, nella mia traduzione così maccheronica, seppur aiutato, indirizzato da uno degli ospiti muti di questa serata, per qualsiasi via si va, comunque si va sbagliando, insomma, in sostanza questo è un po' il assunto della faccenda, quindi piuttosto consapevoli del loro essere veramente outsider, come questa sera appunto abbiamo titolato questi eroi, si potrebbe dire, della stramberia, della follia musicale. Io vi saluto qua appunto sull'IV, vi rimando a domenica prossima, 451 frammenti sonori, in mia compagnia Max Macchia, in compagnia molto probabilmente di Eliseo Scarpa, anzi lo do quasi per certo, a meno che non cada una tegola in testa a lui, a un pianoforte, che ne so, sulla schiena a me, magari succederà, sarebbe insomma una fantasia weird, speriamo che non sia una realtà weird o più nerds, forse, visto che appena adesso mi è uscito il termine. E tant'è che, se insomma non succederà questo o altre faccende insomma disgraziate, ci risentiamo qua 451 appunto per la domenica prossima. Vi dico che 451 frammenti sonori lo potete trovare con questo nome, puntandolo e poi mettendoci noblogs.org come blog, quindi potete tranquillamente riascoltare le trasmissioni, e probabilmente anche tra poco sarà riattivato la possibilità di downloadarle quindi in MP3 e potersele portare in giro anche con vostro iPod o lettore MP3, e quindi insomma sopportarci anche in situazioni magari vaganti e fuori dagli orari che sono di Città del Capo. Vi saluto sul serio questa volta, per concludere appunto il nostro omaggio, l'omaggio di 451 al mondo outsider, dei papà, delle mamme, anche visto che prima abbiamo trattato anche la Wendy, legate appunto al universo folle e assolutamente fantasioso e fantastico dei weird. Oh, Thank you.